E concedetemi di partire da una contraddizione personale, direi. Martedì scorso era il 15 dicembre, per cui la sera sono sceso, come si dice, in piazza insieme a un certo numero di persone, in gran parte compagni anarchici, per ricordare l'assassinio di Giuseppe Pinelli. È un appuntamento che da anni cerco di non perdere, un impegno a cui mi spiacerebbe mancare e che ritengo dovrebbe riguardare tutti quanti. E tutti quanti, anarchici o no, hanno a cuore il problema della giustizia nel nostro paese. Ma al tempo stesso, in questo consiste la contraddizione, mi sono accorto che si tratta di un'esperienza che si sta facendo anno dopo anno sempre più surreale e sempre più difficile da vivere, e che mai più surreale e più difficile da vivere mi è sembrata che questa volta. Vedete, non era tanto il fatto che fossimo pochissimi, non più di 200-300 persone, che quindi non manifestassimo altro che la nostra debolezza, o meglio, che l'avremmo manifestata se nella città gelida e deserta ci fosse stato in giro qualcuno cui manifestarla. Non ho mai creduto che per aver ragione sia necessario essere in tanti, anche se qualche volta, vi dirò, non mi dispiacerebbe, e in fondo sono abbastanza convinto che anche manifestare solo davanti a se stessi in certe occasioni sia un dovere a cui non bisogna sottrarsi. E non era tanto perché quest'anno il nostro piccolo corteo era, per così dire, animato da un certo numero di giovanotti volonterosi che, applicando le procedure di quello che credo si chiami teatro di strada, si affannavano a illustrare, non senza una certa eloquenza gestuale, il significato della manifestazione e della ricorrenza. Certo, la loro presenza sarebbe stata molto più utile se, oltre ai manifestanti, si fosse aggirato per le vie di Milano qualcun altro essere bisognoso di ricevere spiegazioni. In mancanza di interlocutori, di fatto la loro presenza aveva un forte sapore di autoreferenzialità, come se fosse volta a spiegare a quanti erano scesi in piazza, cioè ai manifestanti, i motivi per cui c'erano scesi, le cose che intendevano manifestare. Ma anche a questo in fondo siamo abituati, e tutto sommato che ci siano dei giovanotti che applicano le loro capacità, la loro incipiente professionalità artistica a un tentativo di spiegazione di questo tipo, in fondo non può che farci piacere. E no, il vero problema, ve lo confesso, era rappresentato da metà dei miei compagni di manifestazione. Erano quasi tutti giovanissimi, salvo qualche eccezione spelacchiata e canuta. Erano dei ragazzini. Non molti dovevano avere più di 20 anni, e quasi nessuno sicuramente poteva aver vissuto quei terribili giorni di 29 anni fa, quando l'assassinio di Pinelli si sommò le bombe di Piazza Fontana per farci capire che il periodo delle illusioni era finito e che contro tutte le speranze di democrazia e rinnovamento si erano mosse delle forze più spietate di quanto avessimo osato immaginarci. Naturalmente, anche il fatto che oggi nel 1998 due o tre centinaia di giovani siano disposti a sfidare il gelo e la solitudine del centro di Milano per ricordare l'uccisione di Pinelli, e come tre giorni prima un paio di migliaia di studenti si erano presi la briga di ricordare Piazza Fontana, in sé è positivo. Sarebbe triste se a manifestare il significato di quegli eventi restassimo solo noi che ne siamo stati testimoni più o meno diretti. Ma d'altro canto, il fatto stesso che ancora oggi, nel 1998, si senta il bisogno di manifestare pubblicamente quel significato, e che a farlo siano dei giovani, in sé non è soltanto un sintomo di cui compiacersi. Mi spiego. Mentre osservavo i miei compagni di manifestazione, mi è venuto in mente che io, alla loro età, nei primi anni 60, non mi sarei mai sognato di partecipare a una manifestazione per qualcosa successo 30 anni prima. Non perché alle manifestazioni allora fosse riluttante, che anzi nel mio piccolo non me ne perdevo una, o che degli eventi dei primi anni 30, non so, la crisi di Wall Street, la firma dei patti lateranensi, l'incendio del Reichstag, che di quegli avvenimenti negassi l'importanza o il significato. Il fatto è che quegli eventi, per me e per i miei coetanei, avevano un significato che non era necessario manifestare. Era un significato riconosciuto, pur nella varietà dei punti di vista e delle sfumature teoriche, dalla cultura del tempo in cui vivevamo. Insomma, facevano parte della storia, come a volte si dice, con un'espressione che in sé non è tanto brillante, perché della storia naturalmente fa parte qualsiasi evento umano recente o remoto, ma che per comodità possiamo anche risolverci ad adottare. Affermare che un certo evento fa parte della storia, dopotutto, significa esattamente che tutti più o meno concordano sul suo significato. Le sfumature di giudizio in questi casi tendono a essere di tipo professionale e a riguardare prevalentemente gli specialisti di giudizi sul passato, che sono appunto gli storici. Ma in questo senso, nella strage di Piazza Fontana, nell'assassinio di Pinelli, con tutti i tristi episodi che vi sono variamente correlati, non appartengono alla storia. E non perché i quasi 30 anni trascorsi non siano sufficienti per consentirlo, il fatto è che la nostra società, nel suo complesso, non ha ancora elaborato la cultura necessaria per ammetterlo. Una parte importante del paese, una parte che comprende oltretutto l'intero livello istituzionale, magistratura compresa, continua a rifiutarsi di riconoscere in quei fatti quello che gli altri, secondo me a ragione, vi hanno visto. E così le autorità, di qualsiasi colore o appartenenza ideologica siano, continuano a glissare sull'argomento e a nascondere probabilmente delle responsabilità personali di cui sono benissimo a conoscenza. E la magistratura, unanime nelle sue molte anime, continua a ripetere come impazzita inchieste e processi che tutti sanno benissimo destinati a non concludere assolutamente niente. La nostra classe dirigente non è riuscita a esprimere nessun giudizio in merito, in un senso o nell'altro, e noi, quei pochi di noi che ad esprimere un giudizio ci tengono, siamo condannati all'infinito a manifestarlo pubblicamente e polemicamente. I giovani che ne sia riconosciuto il loro pubblico merito partecipano a questa funzione e anzi la animano, perché a noi anziani a questo punto non siamo in grado di animare un granché, non lo fanno in nome di un passato che non è loro, ma non possano farlo neanche in nome di una storia che non è potuta diventare tale. Il che è degno di lode, certo, ma può in generare anche un bel po' di frustrazione, giustificando quell'impressione di realtà di cui vi dicevo all'inizio. Il che non significa naturalmente che abbiamo intenzione di smettere, ma che fatica però. Allez viens, je t'emmène au vent.